figlia, no mio, o tei, alta fatal sciagura sovrasta tempe, e di che sai il regno? Signor, che fia! Il pitio orrido mostro che a devastar campagne a spopolar i regni vomitò il cupo abisso a queste spiagge alla nostra rovina di strage morte ingordo s'avvicina. Qual che grave delitto mirca il cielo e questo fiero cerca il castigo al nome d'unico e con pronto sacrificio fa ricorso quale viene a togliere tanti scempi in oracolo si cerchi tu padre al ben comune l'ufficio adempi.